dico due cose io, soprattutto sul laboratorio Lapsus, perché lui è stato fin troppo modesto. Voglio dire, soprattutto una cosa che secondo me è indicativa di quanto sono bravi, perché quando noi, adesso mi verrebbe da dire ai nostri tempi, ma forse un po' fuori luogo, quando provavamo a fare in qualche modo politica 10 anni fa, quando eravamo studenti, non ci saremmo mai nemmeno sognati di fare una cosa che loro invece sono riusciti a fare, che è avere appunto l'autorizzazione di fatto dall'università, dal rettore dell'università, di autogestire completamente un laboratorio, che secondo me è una cosa importantissima, che riconosce poi anche formalmente i crediti agli studenti che lo frequentano, quindi portando anche contenuti estremamente originali nel piano di studi di fatto degli studenti di storia. Questa è una gran cosa. Penso che sia un bellissimo modo e molto intelligente soprattutto di far politica all'università. Detto questo, voglio dire una cosa che non l'ho mai detta in tutte le altre presentazioni, che lì c'è il libro in vendita, quindi stasera volevo dirlo, se qualcuno vuol comprare può farlo. Il libro, e anche questo non l'ho mai detto, è in vendita in tutte le librerie Feltrinelli, da qualche parte si può comprare a scaffale, come Silvia mi aveva detto a un certo punto, nelle altre si può ordinare oppure si può comprare sulla feltrinelli.it. Detto questo, inizio intanto ringraziando Armando Stella, che per me era importante averlo qui perché innanzitutto è un amico, un collega di studi, abbiamo per tanti anni frequentato insieme le biblioteche dell'Università della Statale di Milano e quindi mi faceva piacere. Poi soprattutto perché lui da giornalista, perché è un giornalista del Corriere della Sera, scrive sulle pagine milanesi e spesso si trova a toccare, come dire, argomenti importanti della città di Milano che in qualche modo mi riguardano, riguardano un po' tutto sommato tutti quelli che sono qui stasera, quindi, come dire, gli aspetti un po' più legati anche a quello che è il sociale della città di Milano, no? Ultimamente, per esempio, hai seguito tutte le vicende della casa di Via Savona, poi tutte le peregrinazioni di questi ragazzi alla ricerca di una nuova casa, le vicende degli studenti, comunque insomma un po' tutto quello che si muove nel sottobosco di Milano, secondo me lo fai anche piuttosto bene, quindi mi fa piacere averti qui stasera. Ringrazio voi tutti voi che siete qui, ringrazio Silvia Morosi che ha accettato di fare le letture, nonostante sia molto preoccupata da quello che l'attende, ma in realtà siamo fra amici, quindi va tutto benissimo. Poi ringrazio i ragazzi del BIT che hanno deciso di ospitare questa piccola iniziativa. A chi devo passare la parola? Io. Così iniziamo a parlare un po' del libro. Grazie. Ciao a tutti. Cercherò di essere il meno noioso possibile e di divagare il meno possibile, perché ho scoperto che leggendo questo libro, nonostante io abbia incrociato Gigi, le nostre vite si siano incontrate più di 10 anni fa, questo libro mi ha mostrato una persona che non conoscevo, mi ha raccontato una storia che non conoscevo e mi ha fatto, infatti ho portato un paio di libri, mi ha fatto tornare in mente due libri che in qualche modo raccontano 10 anni. Questo è un libro recente, è la biografia, una biografia scritta da Cristian Rocca, di uno scrittore, che inizia così: non ho mai incontrato Mordecai Riegler, eppure mi sembra di averci fatto il militare insieme. Ho pensato che questa fosse la frase migliore per inquadrare quello che è un po' questo libro, soprattutto per chi non conosce Gigi, che è un libro che ti racconta, e poi rimane il dubbio se ti racconta la realtà o la fantasia o una biografia o una storia romanzata, ti racconta una persona al punto che le conversazioni tra me e Gigi da stasera saranno diverse rispetto a quelle che sarebbero state ieri. Lui non l'ha detto, è un libro, a parte della distribuzione, è un libro autoprodotto comunque, quindi puro, un libro che al massimo è stato censurato sui temi o sulla scrittura dall'autore, da nessun altro, ed è un libro che racconta, io cercherò di evitarvi il fastidio di come dire, di essere pedante, di essere lungo, però racconta, ve lo riassumo, 30 anni di storia personale, 30 anni di una città, 30 anni di dolori, di azioni, di inazioni, 30 anni di sogni di bambino, la storia di un calciatore probabilmente di talento fallito, la storia di uno che ha rimorchiato moltissimo nella vita, almeno così racconta di aver fatto. Alla fine della lettura, che è una lettura che si fa velocemente, in un'ora, in un'ora e mezza si sbriga, quindi se avete altri impegni volete prenderlo che non c'è problema, rimane una domanda, secondo me, che è quella da cui vorrei partire. Cioè, cos'è questo libro? Se è una biografia, come pare, a una prima lettura, se è l'epopea del calciatore che ha perso all'ultimo provino, se è un romanzo biografico, se è una biografia romanzata, se è un diario raccontato, se è un collage di ricordi, se è un best of, magari, che ne so, hai messo solo le cose più fiche che ti vengono in mente, se è un atto d'amore, perché ci sono alcune parti che sono dedicate, se è, non lo so, a me è sembrata anche per larghi tratti del libro una sorta di poesia in versi liberi, in versi sciolti, per cui è una, mettiamo che sia, faccio un'ipotesi, un romanzo biografico, è un romanzo che fa dei salti anche temporali, che non rispetta una linea continua. Quindi la prima domanda che volevo farvi, proprio perché alla fine la cosa curiosa del libro è sapere dall'autore se se l'ha inventato o se è la sua vita, la prima domanda è: cos'è questo libro? Allora, io chiaramente, come anche nelle altre presentazioni, non ho voluto sapere prima né le domande né le letture che saranno fatte, perché sennò l'avrei censurata questa domanda. Io sai bene che non ti risponderò, o almeno non ti risponderò sinceramente. Il libro è un po' tutto quello che hai detto tu. È un po' tutto quello che hai detto tu, nel senso che ci sono, c'è una parte chiaramente della mia vita, questo sì, c'è una parte di romanzo, e quindi episodi che sono soltanto nella mia fantasia. C'è una parte di dono, e quindi sì, in quel senso c'è una parte di restituzione all'amore, o almeno di quello che l'amore è stato nella mia vita, della sua giusta dimensione. Quindi in quel senso è stato anche un chiudere un cerchio rispetto alle ultime esperienze felici o anche estremamente dolorose. Quindi è stato un po' un modo di mettere lì alcune cose che mi sono successe, anche per poterle affrontare in maniera più oggettiva e più serena. Quindi c'è questo. Da un'altra parte c'è appunto la volontà di raccontare attraverso una storia personale, ma che è, secondo me è una storia personale che è la storia comunque di molti, raccontare attraverso una storia personale la storia di una città che nei 30 anni in cui ha ospitato me, perché io qui non sono nato, si è trasformata in maniera estrema, si è trasformata enormemente, soprattutto laddove sta il cuore di questa città, quindi soprattutto nel centro della città. I quartieri del centro si sono trasformati enormemente e io ho avuto la sorte di poter assistere a questa trasformazione, perché ho sempre vissuto nel quartiere del centro, prima con i miei genitori qui da solo, in un certo senso da forestiero, perché per alcuni anni così mi sono sentito, essendo arrivato da un'altra città, e quindi in qualche modo ho assistito alla trasformazione di questa città in alcuni momenti con rabbia, in altri con rassegnazione, in altri con stupore anche positivo, e quindi mi sono detto a un certo punto ho pensato che forse descrivervi non sarebbe stato così male, descrivere queste trasformazioni. E quindi ho messo insieme le due cose, la voglia di raccontare una storia che appunto in parte era anche una storia personale e la voglia di descrivere queste trasformazioni, e ne è venuto fuori questo libro. Questo non era un libro inizialmente, perché è una cosa che io inizialmente ho, ho iniziato a scrivere per i miei amici, perché volevo che anche loro scrivessero qualcosa, in modo poi da ricostruire una storia collettiva di Milano negli ultimi 30 anni. Poi, siccome nessuno mi ha seguito e siccome nello stesso tempo mi iniziavano ad arrivare anche dei feedback abbastanza positivi su quello che avevo scritto, ho detto vabbè, io vado avanti. E poi alla fine, rileggendo, ho detto boh, forse vale la pena in qualche modo di pubblicare quello che ho scritto. Come ho già detto altre volte, ho avuto diversi contatti con diverse case editrici dopo aver preso questa decisione. Alcuni non mi hanno cagato perché evidentemente il libro non gli è piaciuto, altri invece il libro avrebbero voluto pubblicare, e lì sono stati in alcuni casi dei bei dialoghi, nel senso che mi hanno dato alcuni consigli molto utili di cui io ho fatto tesoro, però nello stesso tempo mi chiedevano di trasformare il libro perché editorialmente, e io lo capisco benissimo, per una casa editrice diventasse appetibile, quindi sostanzialmente mi chiedevano di allungarlo, perché chiaramente la casa editrice deve necessitare, non solo necessariamente quello dello scrittore. Secondo me invece il libro va pronto così, e quindi ho deciso di fare lo stesso. Dall'altra parte ci sono tante piccole case editrici che si muovono un po' come delle associazioni di Lincoln, e quindi ti chiedono di acquistare, come poi succede nel mondo della ricerca e del resto, e qui diverse persone lo sanno bene, ti chiedono di acquistare un numero spropositato di copie, quindi non ne vale la pena. E loro hanno detto, vabbè, faccio da solo. Ho fatto questo accordo poi di distribuzione con Feltrinelli e sono contento così. E sono contento di aver fornito, attraverso una storia personale, una storia, ho la pretesa di aver fornito una storia di Milano negli ultimi 30 anni, una storia nella quale credo che almeno la mia generazione si possa riconoscere, chi più chi meno, per tanti aspetti. Non so se ho risposto alla tua domanda. Ma eri un calciatore o no da ragazzino? Ero molto bravo. Cioè, mi stupisco di non essere lì in Europa lì stasera. Però ero un calciatore, sì, questo è tutto vero. Avevo anche buone prospettive, però non se ne è fatto più niente. Mi sono annoiato. Però lo ero. Allora, passiamo alla parte più divertente, che è quella della lettura del libro per chi non l'ha letto. Abbiamo fatto una selezione di brani che introducono poi gli argomenti che affronteremo. E questo è il brano che noi non ci siamo messi d'accordo, che però racconta proprio quello che diceva Gigi, cioè le atmosfere di Milano che si respirano attraverso il libro. Nelle strade dietro via Torino, là dove ci sono i San Pietrini, un giorno andando a manetta uno tocca l'altro e praticamente tutti cadiamo a catena. Cazzo, quanto sangue, ma che risate anche. Manca il Giro d'Italia, volano così, tutti, insieme. La sera, in quel periodo, papà mi porta da Rattazzo o da Totò. Piazza Vetra, negli anni Ottanta, è una bolgia, e spesso, mentre io bevo la cioccolata, in questo bar che è tutta una nebbia per il fumo, arriva di corsa la polizia. Stiamo facendo scorribanda alla standa di Via di Missaglia. Finiranno col beccarci. Me m'hanno già beccata al looping in corso San Gottardo, ma il tizio, lo sbirro, ha fatto finta di credere che quello fosse il mio vero nome. Quindi entro nella scuola di Via Pace, per la prima volta nel 1992. In realtà non ne so un cazzo, non so che ha una pessima fama, del resto Milano è solo il ticinese e dei pessimi professori. Quando arriviamo al corvetto, ogni giorno qualcuno, o all'ingresso e all'uscita, le prende, a volte di brutto. Qualcuno finisce in ospedale, di solito i ritardatari. A me, per fortuna, non succede mai nulla. Gli zozzi, alle colonne di San Lorenzo, rompevano spesso i coglioni, soprattutto quando eravamo in giro con Eno. Negro di merda lui, amici del negro noi. Ma vabbè, calci in culo ai punk, ma vabbè. Solo che il ticinese è nostro, non è vostro. Un po' forse l'avete capito, quando in Sant'Eustorgio vi abbiamo mandato a fanculo perché vi lamentavate dei marocchini e dei terroni in piazza. Al Vittoria ci porta nel giugno del 1995 il professore di biologia. Naturalmente si parte dal ticinese, con il 9 fino a medaglie d'oro, poi a piedi fino ai muratori, angolo via Friuli. Quanti milioni di volte poi questa strada negli anni successivi? Quante volte tutta a piedi? Abbiamo deciso di non leggere un brano ordinato, proprio per non rovinare anche il gusto della lettura, perché sennò alla fine è un libro di poco più di 100 pagine, ne avessimo lette 20, 25 avremmo rovinato un quarto del libro. Quindi abbiamo preso degli estratti. Questi sono tutti estratti che raccontano piccole realtà, piccole storie. C'è una toponomastica, una geografia umana, una geografia sentimentale, che è una, diciamo così, la geografia di Milano è uno dei protagonisti di questo libro. Gigi, non, ve ne accorgerete leggendolo, non ne fa una descrizione fisica, cioè non prende il territorio e lo racconta. È una geografia umana perché deve, la immagina chi la conosce. Per chi non la conosce potrebbe essere un libro ambientato a Torino, a Bologna, probabilmente. Una vita turistica. Sì, sono solo citati i nomi delle strade, non ci sono descrizioni dei palazzi, degli androni, tranne che per la parte, in cui riguarda, la parte riguardante la sua infanzia. C'è però in questa geografia, io mi sono appuntato una frase che è nelle prime pagine del libro, che dice: eravamo attaccati al ticinese con le unghie, che è una delle frasi del libro che mi è piaciuta di più. Perché c'è questo rapporto carnale, graffiante con i luoghi, cioè le storie hanno senso perché sono ambientate in quei luoghi. Il ticinese, l'infanzia ha senso perché è al ticinese, la formazione scolastica ha senso perché si snoda tra il centro e la periferia, Porta Romana ha senso perché il Vittoria è Porta Romana, e quindi questo rapporto intenso con la città mi porta a chiederti, che è un tema che già accennato prima, tu racconti nel libro la prima fase migratoria del sud, che è la tua fase, che è la mia fase tra l'altro, a un certo punto le migrazioni diventano più vaste, c'è una parte del libro molto, molto profonda sul rapporto che si ha con gli altri, con i diversi, e come questa città è riuscita ad accettarli, a integrarli, a non integrarli, a respingerli. Volevo chiederti, preso l'immagine di Milano che dai nel libro, se questa è ancora una città su cui hai presa, che senti che è tua con le unghie, se invece è una città che è scivolata, che si è lasciata andare, se è una città che è riuscita a integrare, se non c'è riuscita, se le sensazioni di bambino, di un, diciamo così, di un'immigrazione difficile, ti sono rimaste attaccate o se te sei tolte. È una bellissima domanda questa, ti ringrazio. È una bellissima domanda, però è anche molto difficile rispondere in questo senso. Chiaramente quelle, le riflessioni che tu hai sintetizzato e mi hai riproposto sono posteriori. Durante le fasi della mia vita è stato... Quando sono arrivato per me era facilissimo, nel senso che per i primi 10 anni Milano per me era il mio cortile, e nel mio cortile i milanesi non ce n'erano. Quindi eravamo appunto Terroni, come venivamo qualcosa chiamati. L'Anita. Cioè l'Anita appunto, che era l'unica milanese di cui parlo, tra l'altro con molto affetto, nel libro, e lei sì era l'unica milanese. Per il resto eravamo Terroni, Negri appunto, come invece qualche volta veniva detto quando uscivamo dal cortile, qualche ebreo non italiano, quindi sostanzialmente per i primi anni il contatto con Milano è stato assolutamente relativo, nel senso che appunto ero in questa enorme casa popolare con un cortile stupendo, la nostra dimensione era quella, eravamo fra fratelli in sostanza, quindi Milano per me era quello, corso di Porta Ticinese, era attrezzo perché mi ci portava mio padre, e quindi Milano era una cosa meravigliosa, appunto, basta. Come vicini di casa avevo due transessuali, che hanno portato la mia vita in umanità fantastica. C'era tutto un tessuto che rendeva Milano molto morbida, molto accogliente, però appunto era fatta sostanzialmente da milanesi. Dopo quella fase è venuto un periodo di rigetto da parte mia di Milano, perché non mi ci sentivo, non ci stavo bene, non ero a mio agio, avevo voglia di andare via. Poi io sono salentino appunto, e in quegli anni ero spessissimo giù, perché o stavo dai nonni quando ero più piccolo per tanti mesi, oppure poi quando sono stato un po' più grande, ci ho passato almeno i 3 mesi estivi completamente lì, in quel periodo Milano non la sentivo vicino. Poi appunto ho iniziato a fare politica, come voi avete citato, ho iniziato a frequentare i centri sociali, quindi ero molto sensibile anche a quella che secondo me era e in parte ancora è una tendenza all'esclusione da parte di Milano e dei milanesi, che poi appunto in buona parte milanesi non sono. Però devo dire anche che in buona parte ho ormai fatto pace con Milano, nel senso che sono innamorato di questa città e anche dei suoi aspetti peggiori. Sono innamorato del caos, della difficoltà anche di instaurare dei rapporti con le persone, però ecco, questo forse ti porta poi ad apprezzare anche molto di più quelli che sono i gesti positivi che dalle persone comunque vengono, perché poi in fondo capita di trovare spesso del buono nelle persone. Adesso non voglio fare il prete di sinistra, però è così sostanzialmente. Però qui si gioca il ruolo proprio del mio quartiere, del quartiere ticinese, appunto, perché è un quartiere che conserva una dimensione umana, nonostante tutto, molto forte. È uno degli ultimi quartieri nel centro di Milano, nonostante si sia enormemente trasformato, nonostante sia diventato il cuore della movida milanese, nonostante sia diventato un posto in cui ogni negoziante vorrebbe avere la sua griff, ogni stilista vorrebbe avere la sua griff, comunque è un quartiere che ancora conserva in qualche modo le sue radici. E quindi il mio amore per Milano è soprattutto il mio amore per il quartiere, perché il mio rapporto con Milano è filtrato necessariamente da quel quartiere e mi porta a pensare che Milano ha ancora tantissimo da dare. Ha ancora tantissimo da dare, e io credo che anche nei suoi aspetti più negativi, che sono appunto una certa capacità di integrazione, per esempio, penso che comunque i figli di questa generazione di milanesi saranno, che ci piaccia o non ci piaccia, o che piaccia o non piaccia, soprattutto ai loro genitori, comunque saranno molto più avanti di noi. Perché che noi l'abbiamo voluto oppure no, i nostri figli saranno cresciuti con in classe gli immigrati, i figli degli immigrati, che non saranno neanche più immigrati, e quindi Milano cambierà. E io appunto aspetto di godere, di gioire di questa Milano più bella. E quindi Milano sì, Milano nel libro c'è, perché è la città che comunque mi porto dentro con tutte le difficoltà e tutte le contraddizioni, la città che mi ha cresciuto, è la città dove spero di vedere un giorno un'umanità diversa, che voglio essere ottimista, secondo me arriverà. Anche in questo caso ti chiedo, ti ho risposto. Sei sempre bravissimo. Grazie. Eccoci. Voi ragazze del Verger, oltre che essere simpatiche, avete avuto un ruolo importante nella vita dei ragazzi del Vittoria. Tutte messe bene, di buona famiglia, con principi così lontani dai nostri. Con quelle dei concerti era diverso, mi sa che manco si parlava. Siete dolci ragazze, così diverse da noi. Scrivete poesie per noi. Alcune le conservo ancora, cioè le mie le conservo tutte. Non è strano che non fossimo noi a scriverle a voi, bensì voi a scriverle a noi. Anzi, è proprio normale. Chissà che non ci abbiate insegnato un po' di dolcezza. Non so perché, ci sono delle volte che non so tirare fuori le parole. A te, mamma, so solo scriverti lettere. Tu, del resto, sai tutto di me. E sai che è l'unico modo che ho. Forse questa cosa l'ho un po' presa da te. Le mie lettere, del resto, ti fanno star bene, lo so. Ne scrivo un po', talvolta parlando di te, talvolta parlando di me. Scrivere tanto di sé è come curarsi, ma ti scuote nel profondo e ti costa fatica. Il demone della scrittura è quella roba lì per cui, quando sei a letto, che ti regge le insonne, scrivi mentalmente pagine e pagine bellissime. Poi ti rassegni, ti alzi, accendi il computer e ne recuperi sì e no 2 pezzetti. L'hai scritto tu, quindi... No, uno degli aspetti, secondo me, veramente interessanti del libro è proprio quello che riguarda la scrittura. Perché glielo accennavo prima, ho scelto di affrontare questo tema perché mi ricordo Gigi all'università, scriveva dei saggi barbosissimi sul marxismo-leninismo, sul capitalismo, delle cose insopportabili, ma anche scritte in maniera pesante, illeggibile, tronfie di una cultura che te la raccontavano, che sapeva tutto lui. Questo libro, stranamente, poi magari è il percorso dello scrittore che si è fatto e si farà, è scritto con una leggerezza inaspettata. È scritto con una punteggiatura curiosa, tra l'assente e lo zoppicante. È scritta con tutte le parolacce che non ti ho mai sentito dire, perché sei un ragazzo educato con le persone. È scritta con uno stile difficile anche da incasellare, da ingabbiare, da descrivere. È scritta, e mi ricollego a quello che dicevo prima, posto che secondo me questa è un po' una sorta di piccola versione di Gigi, breve perché racconta 30 anni, quindi non è una versione di Gigi fatta da 70, che però parte da un presupposto, e la scrittura ne è una conseguenza, da una sorta di impulso irrinunciabile. Sul libro che ti ho portato, che mi sembra calzante, insomma il paragone mi sembra calzante, iniziava proprio così. Tutta colpa di Terry, è lui il mio sassolino nella scarpa, e se proprio devo essere sincero, è per togliermelo che ho deciso di cacciarmi in questo casino, cioè di raccontare la vera storia della mia vita dissipata. Ho scelto questo libro un po' perché uscì quando noi facevamo l'università, e mi sembra costruito sia dal punto di vista linguistico che dal punto di vista della foga narrativa, costruito sullo stesso presupposto, cioè di una sorta di stile contaminato da una foga che va contenuta, e quindi più che una scrittura che, come dire, cesella, che vuole descrivere, che vuole appesantire situazioni, una scrittura che è figlia di un'esigenza quasi difficile da contenere, un'esigenza che però diventa anche una cura, una terapia, e il modo per fare i conti con te stesso, come è scritto nel libro. Però questo della scrittura, cioè come tu riesci a scindere il tuo essere, io anche sono storico, non lo dico mai chiaramente, l'essere storico, pedante, e quella di scrittore divertente e leggero, secondo me è un aspetto che ci puoi raccontare. Cioè, come ti viene fuori questo stile di scrittura? Ho pensato a due cose mentre facevo, siccome sono uno che tende a distrarsi molto. Ho pensato due cose mentre mi facevi la domanda. La prima è che avete fatto un lavoro della Madonna per cordiale, domande, letture e domande. La seconda è che sapendo non ti avrei mai invitato a fare domande. Come hai detto? Pedante, sa tutto lui. Ne parliamo dopo. No, è una bella domanda perché non è che non si sposi, non è il fatto di essere storici, è il fatto di avere anche la scrittura leggera. Qui c'è Roberta che potrebbe dire qualcosa, che mi è capitato di leggere delle cose che mi sembrano leggere e nello stesso tempo scientificamente importanti, quindi non è una cosa, non esclude l'altra. Ecco, però quello che volevo dire è che io ho cercato uno stile, ho cercato il tipo di scrittura che meglio rispondesse alla mia esigenza comunicativa, appunto, che era quella di rendere interessante appunto una storia personale e nello stesso tempo la storia di una città, nello stesso tempo assecondando un po' quello che era l'oggetto della narrazione. Quindi da qui, per chi ha già letto o leggerà il libro, anche la forte differenza stilistica anche fra la prima parte del libro e la seconda, che devo dire a molti è piaciuta moltissimo, a qualcuno è piaciuta un po' meno, è che però nel mio progetto di scrittura era funzionare in maniera più assoluta quelli che erano i contenuti che io andavo raccontando, perché nella prima parte del libro appunto descrivo il racconto, intanto gli anni dell'infanzia, che sono quelli denti per l'autonomia, no? Quelli addirittura durante i quali ci capita di annoiarci, cosa che probabilmente a un certo punto della nostra vita poi non ci succede più, e poi sono quelli in cui comunque il tempo scorre molto lentamente, come ho detto anche altre volte, se noi pensiamo credo che succeda a tutti, pensando all'infanzia, no? Si pensa magari a questi pomeriggi interminabili, a questi tempi dilatati. E quindi necessariamente, essendo anche quella una fase di quiete della mia storia, della storia di questa città che io voglio raccontare, anche la scrittura risponde stilisticamente a questa esigenza, quindi è più tradizionalmente libro, no? Quindi periodi anche un po' distesi, una narrazione, come dire, più oggettivata, mentre nella seconda parte, che poi sostanzialmente racconta la mia vita e la mia vita dentro questa città e quindi la storia della città, che invece diventa quella dell'adolescenza, dell'attività politica, del mio uscire da quella dimensione, uscire dalla dimensione del cortile e scoprire, attraversare questa città, lì il ritmo si fa serrato. Lo stile di scrittura, dal mio punto di vista, doveva assecondare questo cambiamento, e quindi anche lì diventa molto, molto poco libro nel senso tradizionale, è molto più come Marco, che tra l'altro qui ha definito secondo me in maniera splendida in una recensione che ha fatto, diventano quasi degli sms notturni, no? che è un'immagine che a me piaceva tantissimo. Quindi ci sono periodi molto brevi, non so neanche periodi, sono 5-6 parole messe insieme che vanno a formare una frase, che vanno a formare il concetto che io cerco di comunicare. Quindi ritmi molto intensi, brani di libro, perché poi appunto io uso questo artificio della linetta che continua a piacere, mi faccio complimenti da solo. Quindi anche di brani molto brevi, perché comunque quello che io sto raccontando lì è un pezzo della storia di questa città che è frenetico. È frenetica l'attività politica, è frenetica la gestione di un locale come adesso sarà per esempio per loro, o per chi ancora vive all'interno dei centri sociali, è un'attività frenetica, quindi stare dietro alle scadenze, fare questo, organizzare quest'altro. E quindi lo stile doveva rispondere a questa cosa. Io da un giorno all'altro, inizialmente in maniera istintiva più che ragionata, poi l'ho riguardata, l'ho visto che funzionava, ho deciso di assecondarla, e quindi c'è appunto questa frattura enorme tra la prima parte e la seconda parte del libro, dove lo stile cambia completamente. La struttura libro viene demolita e partono appunto gli sms notturni, come sono stati definiti in un modo che appunto mi è piaciuto molto. Ho risposto? Adesso entriamo nella parte introspettiva e marzulliana dell'intervista. Ovunque ti giri, al mondo, c'è morte. La cosa più terribile è che in fin dei conti ci siamo abituati. Muore anche la nonna, non so più bene quando. Tu, papà, i tuoi li hai già persi. La mamma non è pronta e si vede. Un incidente, nemmeno lo sento, chi ha ragione, chi ha torto, ma chi se ne frega? Lo zaino è pieno in un attimo e il treno mi porta, attaccata al cesso, in piedi, fino a Foggia, prestata immobile tra mille persone. È Pasqua, cazzo, e qui invece di risorgersi muore. È il funerale. Ci siamo visti a gennaio per l'ultima volta e non è stato un bel separarsi. Il tuo nuovo amore piange e urla sotto casa tua e di tua nonna. Il mio nuovo amore ti odiava. Ora fra i puzzi è inondata di petali bianchi e quanto soffro pochi lo sanno. Sono Daniela e mi abbraccia. Filippo che ha chiamato mia madre. Il mio nuovo amore lo perdo, poi lo ritrovo a casa mia e non ho di meglio da fare che farmi fare una sega, ma non mi sento in colpa. Per le lacrime c'è tempo. La prima notte è quella buona e ce ne saranno sempre delle altre. Alcuni giorni dopo ho scritto una poesia per te. Eccola. Ho pensato che il nuovo capitolo potrà iniziare da lì. I tuoi occhi sono irrimediabilmente nei miei. La tua voce, la tua semplicità, sono il vino che, bevuto con te, è ancora di più fonte di magia. La tua amicizia è gioia e sofferenza, qualcosa che ha e che forse sarebbe. Tu sei in me e con me, un sole che anche mancando fa sentire il suo calore e la sua vicinanza. E questa fra, sole che prima o poi ritorna, è solo per te. Non posso dirti che rifugga la morte, che voglio sottrarmi al suo sguardo, che non ne posso più risentirla nell'aria. Voglio far finta di niente. Così tanti di noi, davvero troppi tra noi. Ancora oggi, ogni volta al TG, mi vengono i brividi. Vedo persone sconosciute che si disperano e mi viene da piangere. Vedo rottami sull'asfalto e mi si disfa lo stomaco, come quando, lo sai, avevo sempre voglia di vomitare. Ma mi vuoi bene lo stesso. Pochi giorni fa mi hai detto che mi vuoi bene, ancora e sempre. Io ti ho detto che ti penso spesso. Sogno un mondo di gomma che ci restituisca la vita. Questa, secondo me, ne parlavamo prima. Sono le parti più forti del libro, da un certo punto di vista. Sono quelle più introspettive, più private, più dolorose. Però c'è un senso lucido della fine, un senso tragico della fine, che accompagna un po' tutto il libro, a prescindere dai singoli episodi, episodi di vita. C'è una visione chiara che tutto possa crollare a un certo punto, a prescindere proprio dall'aspetto che si sta raccontando. Tutto sembra in bilico, precario, anche la felicità sembra poter finire in un attimo. Volevo che ci raccontassi proprio il motivo per cui il libro è segnato da questa visione non malinconica e nemmeno triste, ma proprio da questa visione profonda, seria della vita, di una vita, come dire, delicata. Cioè, c'è questo tocco delicato e rispettoso di una vita che non si riesce a controllare. Ma questa è la parte che per me è sempre un po' più tosto affrontare, però lo faccio molto volentieri, anche perché appunto ho deciso di condividerla, quindi è bello, è importante che si faccia. La risposta, la più semplice, immediata e banale, è che la morte è raccontata in funzione della vita. La morte è raccontata in funzione della vita nel senso che innanzitutto mi è capitato che sia stato così. Nel senso, è capitato che nella mia vita ci sia stata diverse volte la morte di persone molto care, spesso. E nello stesso tempo che abbia riguardato persone che hanno amato molto invece la vita. E in qualche modo per me raccontare questi episodi era un modo di comunicare a chi avrebbe letto un po' l'amore per la vita che vive in me, che vive in queste persone. Ma nello stesso tempo anche, come forse è già stato citato, e come ho anche detto prima, un modo di portare queste cose fuori da me, quindi in qualche modo renderle estranee, in qualche modo è definibili. Perché una volta che le metti lì, una volta che io le ho messe lì, le posso rileggere e le posso affrontare con occhi, come dire, anche più critici, più distaccati. Devo dire che da questo punto di vista è stato un passo importante, ma nello stesso tempo appunto la prima cosa era riuscire a comunicare sostanzialmente quanto bella la vita, perché la vita in fin dei conti è bella, però appunto credo sia capitato a tutti di trovare la bellezza della vita soprattutto nei momenti peggiori. L'operazione che volevo fare era questa sostanzialmente. Sono le parti, tu hai detto, le descritte bene, anche per me sono state le parti più intense e più intime di tutto il libro. Però mi sembrava appunto che lasciando uscire anche questi aspetti, e quindi anche il dolore, Mi sembrava di restituire la dimensione della gioia di vivere, che secondo me era importante che ci fosse. Chiaramente sono stati i momenti più difficili anche durante l'anno in cui io ho trasmesso, ho scritto questo libro. Però devo dire che sono anche le parti che ho scritto con più felicità, perché appunto in certi momenti ci rendiamo conto di quanto è importante quello che ci sta accadendo, e io ho cercato di descriverlo con le parole migliori possibili, però per far questo non ho dovuto fare altro che essere trasparente, che essere sincero, che scrivere esattamente quello che mi passava per la testa, e spero che sia venuto bene, appunto non tanto perché mi interessa che sia scritto bene il libro, ma perché mi interessa che di essere riuscito a comunicare quanto amore per la vita c'è in quei frangenti e in quei passaggi, e quanto amore nella vita c'era in quelle persone di cui io racconto, appunto questo epilogo. La morte è una cosa seria, chiaramente. E quindi volendola toccare, perché dovevo toccarla, perché nella mia vita c'è stato anche questo, ho cercato la forma che mi sembrava la più adeguata, che è quella appunto dell'amore e della felicità. Anche se magari raccontata attraverso pagine un po' dolorose, però. Ecco, ho fatto questo tentativo. Grazie. La cosa strana di questo libro è che per fare un'intervista sarebbe meglio non leggerlo. Perché nel momento in cui lo si legge, si entra in una sorta, cioè scatta un meccanismo di comprensione, ma dai, raccontami, ma com'è andata? Sembra di sfogliare un album di fotografie alla fine, e quindi è difficile dire no, ma quella storiella, perché scatta subito un meccanismo di empatia, insomma, sembra di conoscerti da quando siamo bambini, anche se non ci vediamo da 10 anni e ci siamo visti 3 volte negli ultimi 10 anni. Ci facciamo le ossa il primo anno con un piccolo collettivo, ma il seguito aumenta. Siamo forti, la gente crede in noi. Diamo la salta alla diligenza e ci prendiamo il consiglio d'istituto, che non molleremo per gli altri 4 anni. Se capissimo qualcosa di sesso, potremmo sfruttare la situazione, ma siamo veramente dei mentecatti, del tutto dediti alla politica. Poi arriverà il vittorio. Non sono ancora abbastanza freddo quando volano le mani. Un po' non mi piace, non c'è niente da fare, un po' mi incazzo. Alle popolari, alla fine ti vedi sempre con gente che conosci, anche quando di un palazzo dietro Porta Genova. Menarsi con gli sconosciuti è così impersonale, e poi non sai mai dove finisci. Questa gente per bene non ha regole. Diventerò freddo, credo, molti anni più tardi. A ripensarci, siamo passati da un recinto all'altro, senza soluzione di continuità. Dal cortile al Vittorio. Con le denunce mi stanno massacrando, perdo il conto e le imputazioni sono sempre più varie. Non ho fatto praticamente nulla di quello che mi contestano. Alle volte non sono nemmeno in corteo, ma si vede che non importa. Prenderò un sacco di assoluzioni, ma la vita ne risente. Alcune cose sono davvero pesanti e mi regalano anni di ansia in attesa dei processi. Mi è impossibile fidarmi. In alcuni anni l'aria è pesante e si passano le nottate col pensiero di essere svegliati bruscamente. Ci si addormenta quando ormai è quasi giorno. Facciamo tutto alla luce del sole, ma potrebbe non bastare. Alcuni di questi della Digos sono tipi a posto, ragionevoli, colti e anche umani. Avere a che fare con loro non è un problema e secondo me alla fine ci si vede anche con piacere. Dico davvero, altri è meglio evitarli, si confondono benissimo con i peggiori del mio quartiere. Gli amici, quelli famosi di uniti come l'acciaio, o li ho persi quando sono usciti loro dal centro prima di me, o se al centro c'erano ancora, si dimenticano di me e della merda che mi arriva addosso. Solo un paio non scompaiono, solo uno si preoccupa di quel che succede. Nel frattempo sono ufficialmente sotto processo per l'incredibile denuncia che mi arriva. Non c'ero. L'accusa, le accuse sono pesantissime. Ma di questa cosa non voglio parlare, perché qui divento cattivo. È in questo periodo comunque che date il peggio di voi. Anni di ansia e pochissimi amici, 3, al processo. Alla fine arriva la soluzione. Qualcuno mi ha detto: Gigi, lo vedi che alla fine, se è vero che una cosa non l'hai fatta, viene riconosciuto? Come se fosse normale essere costretti a vivere in quel modo, per anni, e in tanti procedimenti diversi. È un po' come la guerra preventiva. Beh, la parte della militanza politica, dell'attivismo politico, delle frequentazioni è una delle parti più, come dire, spesse del libro. Ho scelto di leggere questi brani e di chiederti come ti rivedi a distanza di 10 anni e come vedi invece i movimenti di oggi, di stamattina, dei blocchi di oggi pomeriggio, delle occupazioni nelle università, nelle scuole, della protesta frontale contro un governo in bilico, perché tu nel libro descrivi la tua militanza politica come una parabola, cioè con l'entusiasmo della scuola superiore, con la militanza vera e propria e con la disillusione della fine, o comunque con, non so come definirlo, con un distacco comunque da quella realtà. Tutte le storie personali sono fatte così, no? Ciclicamente si inizia qualcosa, si affronta, spesso lo si lascia alle spalle. Poi però ci sono altri ragazzi come eri tu, come eravamo noi 10 anni fa, che riprendono il percorso da capo, lo affrontano per intero, si ritrovano, probabilmente alcuni di quelli che sono sui tetti dell'università oggi, tra 5 anni faranno riflessioni magari analoghe alle tue. Voglio chiederti proprio così, insomma, se vedi nella tua esperienza, se vedi nelle esperienze di oggi qualcosa delle tue esperienze di ieri, se c'è nelle tue esperienze di ieri qualcosa che rinneghi invece, o se hai vissuto tutto quel momento anche come una prova irrinunciabile di vita, di crescita, di maturazione. Un'altra domanda difficile anche questa. L'ultima. È una domanda molto rotonda, nel senso che potrei dire molte cose, alcune non vorrei neanche dirle, però la domanda giusta nei giorni giusti, insomma, perché stanno succedendo tante cose anche molto importanti. Voglio dire una banalità per capire quanto è cambiato per me e quanto è normale che cambi nella vita delle persone. Che 2 giorni fa stavo andando a Rimini per lavoro in treno e mi sono dovuto fermare per 2 ore col treno perché avevo occupato i binari della stazione. Lo dico perché è stato per me un momento di riflessione, no? Di anche per rimeditare su alcuni cambiamenti, anche personali. Ma in questo movimento c'è tantissimo, per fortuna che c'è questo movimento, tantissimo delle cose che io ho vissuto e ho sentito visceralmente, perché poi 10 anni prima o 10 anni dopo le senti anche fisicamente diversamente le cose. Io per esempio 10 anni fa le sentivo nello stomaco certe cose e non potevo non esserci, cioè esserci era una necessità, era questione di vita o di morte, esserci era fondamentale. Poi il tempo passa, le dinamiche passano, tante cose cambiano e tu li rielabori, fai tanti compromessi e... però appunto stasera ci sono i ragazzi dell'Apsus per esempio che invece hanno un modo di far politica che a me piace molto e che è molto, estremamente più maturo di quello che per esempio io ho portato avanti, e di questo sono contento, perché loro li ho sotto gli occhi tutti i giorni in università, e vedere loro mi fa essere ottimista, ecco. Io non rendevo nulla di quello che ho fatto, criticamente riguardo le cose che ho fatto, e mi dico quello che in realtà mi ero già detto quando poi ho deciso di fare altro nella vita, mi dico che tante cose è proprio una stronzata farle, per esempio. Ma questo lo dico anche perché c'è in particolare, c'è uno di loro dell'Apsus, per esempio, di cui lo faccio il nome per delicatezza. Che è una delle persone che più ammiro anche di questo importante gruppo di studenti, che come uno specchio mi rimanda tante delle cose che io pensavo, perché è una persona che sta affrontando delle perplessità rispetto a quello che è il movimento, che sono sostanzialmente, e questo un po' mi dispiace, le stesse perplessità che io a un certo punto avevo maturato, cioè certe stupidità di atteggiamento, certe lotte contro il mulino a vento, una certa convivenza con alcune logiche dinamiche che non fanno bene a nessuno e che portano soltanto complicazioni invece poi a chi si spende in maniera molto intelligente all'interno del movimento. Come devo dire, è successo in parte anche a me, no? Che tante volte appunto sono incappato in tante cose che erano in maniera molto semplice evitabili e mi ci sono ritrovato soltanto nella stupidità di pochi che non fanno mai il bene del movimento, ecco. Questa è una cosa sulla quale io ho avuto tanto modo di riflettere all'epoca, sulla quale continuo a riflettere, ed è un peccato invece, perché appunto i movimenti sono movimenti che hanno molto da dire, è molto da fare, hanno un ruolo fondamentale, e a Milano hanno avuto un ruolo importantissimo per trasformare questa città ripiena di vita, e però c'è tutto quell'altro pezzo lì, e io non so, appunto non ho mai saputo come uscire fuori, perché sennò sarei rimasto e l'avrei trasformato quel movimento, invece ho deciso di fare altro. Io spero che loro, che appunto tante cose l'hanno fatte meglio di come l'abbiamo fatte noi, che sappiano trovare la chiave di volta, la chiave per interpretare la realtà e per riuscire davvero poi a trasformare la società esistente. Ci sono tanti motivi per essere pessimisti, però c'è anche qualcuno per essere ottimisti, e mi sembra che le cose le stiano facendo abbastanza bene. Ecco. Poi se questo ci porterà anche alla caduta del governo, tanto meglio, che sarebbe anche ora, ma tanto ormai credo che il governo sia già caduto. Però appunto, per riprendere molto brevemente la dimensione invece personale, per me è stato un pezzo importantissimo della mia vita. Io credo che tante cose non sarei riuscito a farlo, anche a livello, chiamiamolo, professionale. Delle cose che sono riuscito a fare dopo non sarei mai riuscito a fare senza l'esperienza che ho maturato all'interno del movimento, delle scienze sociali, insomma, dell'attività politica che io facevo, perché comunque ti lascia tanto, nonostante ti chieda molto, l'esperienza che ti impara a rapportarti con persone estremamente diverse da te, che ti impara a dialogare, che ti impara a fare compromessi, che ti impara, cioè dire impara, vabbè, ho capito benissimo che sono su un altro pianeta, insomma, che ti insegna a fare compromessi, che ti insegna che ti insegna a guardare criticamente quello che attorno succede, ma criticamente anche te stesso, e quindi a dare un senso diverso a tutto quello che ti succede attorno. E quindi figurati, lo rifarei altre 100 volte, sicuramente spererei di farlo in modo diverso, spererei di ricevere insegnamenti diversi da quelle esperienze, però insomma sono stati anni molto, sono stati anni speciali, e credo che sia importante conservare quella dimensione, semplicemente per conservare anche la voglia di sperare in un mondo che funzioni meglio per tutte quante, quindi non rinnego assolutamente nulla. Appunto il movimento mi ha insegnato tante cose, io credo di averle imparate tante, mi ha complicato la vita per un lungo periodo, ma mi ha lasciato un bagaglio irrinunciabile. Questo è quanto. Abbiamo finito. Io avevo concepito questa conversazione proprio come una conversazione intima, insomma, tra amici, non peraltro, perché tanto basta leggere il libro per sentire e provare le stesse cose, insomma. Dicevamo prima scherzando che sarebbe quasi divertente se ciascuno come biglietto, cioè se io stasera mi fossi presentato con un libretto di 100 pagine con la mia vita come biglietto da visita, perché è una forma assoluta di apertura, insomma, di trasparenza, e questo secondo me riesce anche a migliorare i rapporti tra le persone, insomma, quello che non si, è un libro che supera lo scoglio della diffidenza verso l'altro, dei segreti, delle piccole maschere, quindi io l'ho apprezzato, spero che chi non l'ha letto lo legga, e gli auguriamo buona serata. Grazie. Grazie a tutti. Gli ultimi anni sono troppo vicini, gli amici di adesso, gli ultimi amori, le ultime grida, le delusioni, gli alti e i bassi, è tutto troppo sotto. Se riesco a non perdermi, avrò tempo per ricordare, più in là, quel che oggi succede. Ho ricominciato ad avere gli incubi di allora, ho ricordato gli amici che avevo. Piango come prima e rido come prima. Ho ricordato cose dimenticate, ho rimesso in moto tutto, pur di farlo. E arrivato fin qui so bene che qualcuno piangerà e riderà insieme a me. Qualcuno sarà molto critico e qualcuno penserà male di nuovo. Io vorrei soltanto conquistare finalmente un passato e continuare a disegnarmi un futuro. Un passato che sia un passato e un futuro che sappia stupirmi. Grazie. Se qualcuno poi vuole fare delle domande, se c'è qualcuno ancora sveglio tra l'altro. Dottor Zanini, mi impari qualcosa? No. Io più che una domanda è una considerazione per lì che volevo fare. Visto che insomma ormai conosco Gigi da qualche anno e penso che ci sono poche persone diverse per origine, pensiero, tante cose come noi. E ora volevo collegarmi un po' a quello che diceva Armando all'inizio. La prima volta che ho visto Gigi, che avevo da poco iniziato il dottorato, ho detto ma cosa fa qua un tranviere? Perché era con l'abito grigio, la cravatta bordeaux, la camicia scura. E poi ho detto ma in mezzo a tutti questi atomi il tranviere se non altro umano. C'ha del sangue nelle vene. Poi l'ho frequentato un po' e ho detto beh, non è simpatico, però è caldo. Adesso sono qui. Basta. Sei caldo. Sui 36,7 di solito. Sì, un po' di temperatura c'è. No, Paolo è un pezzo di perché è un buon amico con tantissime contraddizioni, una persona dilaniata, quindi cercate di perdonarlo. Però è davvero un amico, anche perché ha comprato 10 copie del libro, quindi deve essere proprio un amico. In realtà è sempre stato invidioso degli abiti che portavo, tutto qui, e quindi cerca di buttarla sulla polemica spicciola. Allora lo ringrazio, grazie a tutti. Qualcun altro ha delle richieste, delle domande, delle curiosità che vuole esaudire? Vediamo una se no c'è il bancone. Grazie. Grazie, buona serata. Questo ti attiene, te l'ho fatto per te. Devi leggere anche questo. Spero di aver risposto. Compagno iPhone. Hai registrato l'iPhone? Certo.